c'è qualcuno? Sento dirci, c'è qualcuno? Ti ho detto che non c'è nessuno. Eh beh Gianfra, c'ero prima, poi sono dovuto uscire verso le 6:15, 6:30, sono stata una mezz'oretta. E poi sono uscito, adesso sono rientrato, ho mangiato una cosa veloce e poi c'è a vedere se c'è qualcuno vivo o moribondo. Spero che nessuno sia moribondo. No, io c'ero anche allora, però ero impegnato, sono ancora impegnato, perché sto facendo le ricerche tecniche, bla bla bla bla bla, queste cose. E tu, novità, nessuna, oggi non ne ha approfittato, ha buttato sull'antenna. E niente. No, come faccio Gianfra? E poi fino all'orario di lavoro è impossibile, la sera fa buio presto, alle 5 c'è già buio, 5:15. Quando esco io alle 6 non si vede nulla, prima fare di giorno. Se il fine settimana c'è possibilità lo faccio tra sabato e domenica. Avanti. E un controllo, si può vedere in radio come sto uscendo, bene, male, come mi sentite oggi? Senza frusci, senza nulla. Ah, rispetto al giorno che c'avevi l'officina accesa con tutti i macchinari, oggi sta andando benissimo, Antone. Segnale 9:60 quasi e radio 5. Ok, ah, già va bene, mi sono preso un Saturnecco, mi sono fatto il regalo di Natale, anche se ne ho avuto anche 3 di questi, ma almeno non si sente tutto quel casino che faceva prima gli altri apparati. Scusando il Savelta, quindi va bene, sì. Sì, a Puglia non c'è problema. Vai già fra per l'altro. Sì, confermo quello che ha detto Roberto. Né più né meno. Ciao. Ok, vi ringrazio. Adesso vado a fare la cena a Simona, poi al limite ci sentiamo dopo. Ok? Via. Ok, ciao Antonio, buona cena. Tu Gianfra, come è andata oggi? Insomma, sono uscito molto presto, cioè molto presto, un po' tardi per dire il vero, perché ho incrociato un traffico maledetto, da essere a Milano oramai, a Sassaria, per carità, o in bottiglia. E poi, poi dopo devo fare un grosso lavoro, lo devo finire settimana, perché lavoro elettromeccanico, vediamo un po' cosa succede, speriamo bene. Sempre in campo telecomunicazione? No, in campo movimento cancello. Ah, non entrare. Ok, cosa volevo dire? Ti stavo dicendo qualcosa, mi è sfuggito adesso, non mi ricordo, anche io qualche traccia di Alzheimer piano piano sta prendendo. Cosa che capita? No, io mi stavo leggendo il manuale di questo ricevitore, giusto per poi ovviamente l'avevo già aggiornato, la proprio, e adesso vediamo sul caso di metterlo in stazione in maniera definitiva, e così almeno questo è questo terzo, no aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, dove sia il quinto ricevitore, il quinto sesto, neanche io lo so, lo faccio l'attacco, non ho la più pallida idea. E a proposito del ricevitore, adesso mi è venuto in mente, ieri notte ho provato a collegare quel satellite, Marco, purtroppo pensavo arrivasse più forte, per un attimo è arrivato, però c'era un po' di confusione, non sono riuscito a entrare. Poi successivamente, che era tardi, ho collegato quel canale che ti ho accennato, dove facevano la commemorazione del collegamento di Marconi, arrivava a 7:08, sono riuscito a farlo arrivare, ho fatto anche il video, me lo sono memorizzato perché è un bel ricordo. Adesso se tu entri adesso a 1323 sento un'altra stazione, a 658 idem, la stessa cosa, c'è roba sotto. Ma ieri bello, pulito, l'ha detto prima in italiano e poi l'hanno ricordato in inglese, c'è tutta la storia di cosa hanno fatto, che antenne hanno utilizzato, che poi è venuto un tornado, cosa cavolone è successo, ne ha avuto a tentare l'antenna, allora l'hanno sollevata con una specie di coso, loro lo chiamano drago, deve essere qualche pallone sonda, Tanta roba che ci mettono in questo decio di scuole, mamma mia, stai guardando una cosa veramente. Ti devi mettere a studiare lì in una maniera certosina, poi ovviamente da quando domani te lo sei già dimenticato. Troppa roba, troppa, troppa, troppa. E poi ti volevo dire, ieri ho fatto la prova al TS2000 accendolo col computer, ha detto on off, ho detto ma perché cacchio non accende, invece prima devi chiamare, devi schiacciare quel tasto com, come così si chiama, e sei ovvio, e meno male te l'ho spiegato due volte, ma adesso facciamo come a scuola, ti compri un bel blocco notes e metti appunti per accendere questo, fare così, fare colà, finché non ti attenduca. Poi quando hai imparato tutto bene ti cambi l'apparato e inizi a capo. Comane, sì, avanti, comane. Beh, la Claudio, come lo chiama Luca, Claudio. Allora, aspettando, è pronta la cena e poi ci andiamo a cenare. E voi? Io ho già cenato veloce, non è che ci avevo tutta questa fame, però c'era mia figlia, aveva voglia di pizza, ci avevamo preso una pizza e ho fatto veloce, non me la sono neanche mangiata tutta, dopo se mi viene fame ne mangio un altro pezzettino. Ok, e io niente, mi sono entrato adesso, Gianfranco, idem, avanti Gianfranco. Qui, codina di cinghiale. Francesco, ti volevo chiedere, tu hai fatto delle prove sull'Imbara per ascoltare l'R1 430 025? Lo senti? Raro bisegge, però che ho l'antenna in terra io, quando faccio l'impianto sicuramente lo sento, adesso non arriva. Non arriva neanche a Monterraggio in UHF, figurati. Monterraggio è in UHF. C'è anche in UHF a 430 075. 430 075. Boh, non lo sapevo. Sta aspettando di nuovo il brutto tempo, quindi per rimettere l'antenna così. Non me la fotti nulla Gianfra, c'ho altri cacchi per il culo io, non sto pesciando le antenne, no. E neanche la radio sicuramente, sono finiti i tempi. Quando ne ho voglia, se ho tempo, se ne ho voglia, la monto la 510, cambio postazione, la tiro su, adesso va bene così, non me la fotti nulla, cosa. Altre cose, oggi mi sono dedicato a fare altro che mi interessa più della radio, Gianfranco, delle antenne. Cioè, i muratori devono finire, ne approfitto, se vengono anche domani mattina, ce n'ho tutto il giorno, sono anche via alle 6, no, anche per radio, ma devo fare lavori per fare bene, no? Qui c'è la radio, chi mi sente, che non mi sente, chi non mi sente si mette le cuffie, non già me ne affrutti. Vabbè, è una domanda mia, non era un'impressione, non è una cosa, era giusto per fare qualche prova, niente di particolare. No, ti sto rispondendo molto tranquillamente, ma te l'ho già spiegato, già fatto. Io quando c'è tempo bello mi metto a fare cose che mi interessano, pensare alla radio. La radio mi sentono tutti, anzi, non pensavo che mi sentissero così bene, quindi vado bene a tutte le parti, l'antenna adesso rimangono così, lì, basse. Quando poi ne ho voglia e tempo, che ho terminato le cose più importanti che mi servono, allora mi dedicherò magari a tirare sui pali, a mettere qualche antenna più performante. Potrei andare domani mattina, per esempio, va bene Roberto, mi prendo la verticale e me la piazzo, ma non me ne affrutti nulla, cioè non c'è tempo, non è un problema quello, capito? Hai preparato quella roba che ti ho letto, Roberto? Io ce l'ho preparato, se mi la supporta giù un attimo. Il capo e il microfono serve a me. No, il microfono non ha, cioè, perché mi ha dato il microfono con la radio. No, secondo te trovo accettato il microfono, lo vedi tu. Oh, lo sai che neanche me lo ricordo, devo guardare. Quello del microfono non me lo ricordavo. Il microfono normale ti ho dato, scusa. Il microfono normale è capo di alimentazione, c'ha tutto con la radio. Se gli ha lasciato la pronta, così lo mando al centro assistenza e lo faccio mettere a posto. Dica, lo sai cos'è il problema di Claudio Gianfra? Che si sta trasformando il Calvario in mini appartamenti e si deve affittare cosa ai cinesi. Diglielo Claudio. No, le polacche. Attenzione che c'è anche il manuale lì, dietro c'è un libro azzurro, copertina azzurra, c'è anche il manuale, caccia fuori anche il manuale che c'è tutto gli schemi elettrici ci sono lì. Aspetta, sì, ma no, lo vedo qua, aspetta che ne rubavo. Tutto, devi togliere tutto perché mi ha detto mandami tutto perché io di quella radio lì non ho niente, quindi per poterla mettere a posto mi serve tutto, vabbè ti mando tutto. No, se vuoi manuale, questo è troppo bello, azzurro, rilegato, 10 euro voglio quella. Agente generale Marcucci, via, rivoltano a 4 Vignate Milano. Secondo me che l'ha fatto tutto in italiano, liscio. Prova a chiedere a cosa, come si chiama? La cartolibreria tua, l'ha fatto lui. E io, poi ti vorrei, quindi il microfono, la radio, il cavo, dai. Sì, tutto quello che hai di quella radio, per così mandiamo tutto, mi assemblano tutto, mi fanno tutto quello che c'è da fare. Deve uscire nuova quella radio perché è un peccato tenerla così. Vabbè, poi già ci vediamo domani mattina, dai, non c'è problema. Capito Gianfra? Potrei passare a Roberto, prendere la verticale, mettermi a montarla. No, io ho altre cose a fare, credimi. C'ho il giardino che è un disastro, sono due scavi aperti, stanno mettendo i tubi, stanno facendo i pozzetti dell'acqua piovana. C'ho due pluviali da montare, uno l'ho montato oggi, però sta asciugando il silicone, quindi l'altro devono montarlo domani, hanno già messo il tappo col silicone, devono innestare i tubi. C'ho un sacco di cose da fare, Gianfra, credimi, davvero, altrimenti mi sarei dedicato le antenne, ma no, non funziona così, riprendi. Era solo una domanda comunque, guarda che parliamo di roba da fare, lo sto dicendo adesso a cosa via Roberto. Anche io non è che sto a fare cose di radio, però la differenza da te e me è che io mi faccio tutto da solo. Adesso, oggi ho smontato un cancello, domani lo devo rimontare o devo costruire un pezzo di motore e poi va ripiazzato tutto, andiamo a fare delle modifiche anche meccaniche sullo scorrimento. Lo faccio tutto io, se qua tra impianti di sorveglianza, cancelli, compenso commercio, eccetera, dove si chiamano ogni volta un'impresa, probabilmente saremo a cifre veramente da capogiro. Solo per la videosorveglianza che c'è, ma adesso intorno ai 7.000 euro, una cosa del genere. Figurati l'assistenza quando ti può chiedere, se la chiama. Quindi finché ci sono io lo posso fare, se lo posso fare lo faccio. Poi ciccia, però non chiamo imprese, capito? Per mettermi una scala, una banale scala, mettere i tasselli a una scala, 1.800 euro. Sai quanto ho speso io a farmela da solo? Ho speso esattamente meno di 500 euro. Io ho capito Gianfra, ma tu sei lì, impianti di qui, impianti là, di videosorveglianza, ma non mi interessa queste cose, io non devo sorvegliare a nessuno, io ho lavori da fare molto importanti perché sono da finire, prima che inizi veramente l'inverno pieno, io stamattina ho aperto i portelloni, era tutto bianco da me, Sergio lì è bianco, pensavo avesse nevicato, invece era solo ghiaccio, tutto ghiacciato, completamente tutto ghiacciato, ieri notte è andato a meno 2 gradi, perché stamattina c'erano 0 gradi pieni alle 7:30, capito? Quindi notte sicuramente è andato a meno 2 gradi, perciò devo fare dei lavori urgentissimi che mi permettono di stare meglio, capito? Tutto qua, non sto pensando alla videosorveglianza, non me la fu tenuta Gianfra a me di queste cose, no, non devo sorvegliare niente, forse tu sei in una zona un po' più dove devi sorvegliare, io non devo sorvegliare niente qua. Io mi sorveglio da solo, capito? 9x21 e quando vedo qualcuno al cancello di notte lo sparo, qualche altro me la fotta a me. Vai Roberto. Allora, visto che avete tempo libero, sabato mattina se fa bel tempo ve lo trovo io il lavoro, c'è un'antenna da montare. Adesso un lavoro di un'oretta e facciamo tutto. Troppa gente, troppi problemi. Quell'antenna io te la piazzo da solo. In un'oretta è anche troppo. In mezz'ora è piazzata quell'antenna, capito? In mezz'ora quell'antenna è piazzata. assemblarla ci vuole 10 minuti con l'antenna, cosa di 10 minuti, ci vuole più a vulcanizzarla che assemblarla. È una frontata a montare con l'antenna, cosa quanta gente ci vuole. Lì nella piazza tu le metti i cavallotti, la metti nel tubo, attacchi il cavo e stai trasmettendo, 5 minuti. Vabbè, ma il tubo è alto, Claudio, hai visto, ci sono 4 metri di palo, sempre che non ci metta gli altri, vabbè, 2 metri non è male, ne metto un altro metro per attaccarla, per fissare il coso, il proprio l'antenna, la cravatta dell'antenna. Io vabbè, hai visto come è montata la mantova, ma la giubbiata della giura, dai. Non piattata da solo, la mantova non è a cavallotti, viene a starla, fare, poi devi tirare sul tubo, metterla nelle staffe, tirare, fare, non piattata da solo, quell'antenna è talmente leggera che pesa più il tubo, che è una fesseria montarla, dai. Non c'è problema, vabbè, lo sai che io non ho problemi. Io mi devo terminare questi lavoretti, io mi libero per te, sabato mattina, tanto i muratori non ci sono, spero che domani termino tutto, anche se mi lasciano lo scafo aperto me lo chiudo io, basta mi mettano i tubi, i pozzetti, tutto quello che stanno facendo e poi ci tolgono a mettere le balle, il resto me lo chiudo io piano piano, capito? Non c'è problema. Però mi ha detto, va, tra oggi e domani dovremo finire, va bene. Da lunedì, la volta che sono venuti già fra per fare il lavoro del terrazzino, oggi peso 700 euro, peso, pagato 700 euro. Peggio per te, io me li faccio io quei lavori, forse non hai capito, ti ho fatto l'esempio della videosorveglianza, come ti potrò fare l'esempio del ringhiere, come ti potrò fare l'esempio del cancello, come ti potrò fare l'esempio di buttare giù un albero che era pericolante. È tutto il complesso, non è una cosa sola, capito? E nonostante tutto dico che meglio qua che un condominio, assolutamente, perché faccio quello che voglio, lo faccio quando voglio io e non la devo rendere conto a nessuno, punto. Tutto lì. E in più mi risparmio anche soldi, se permetti. Non ho capito perché devo dare a mangiare gente che poi ne arriva, fa pasticci come ha fatto, e la devi pure pagare, ma ci ho buttati pure a calcio in culo, scusando il termine, perché non conoscono neanche come si fanno le pendenze, ma vabbè, comunque. Per l'antenna, quando sento Roberto, a me mi viene da ridere. Guarda che ieri c'avevo in mano un'antenna ausiliaria, tra l'altro che è qua su, il cui tubo è alto, già, dunque quello lì è 2, è altro 6 metri, e sotto c'è una, sopra c'è un X300, il cavo è di quello bello pesante, non è di quello giocattolo, 213. Ma lo sono fatto da solo, ci ho messo un paio di blocchetti per evitare che scappasse il palo e me ne cadesse addosso, messo le staffe, doppia staffa, col trapano percussore, perché io gli attrezzi ce li ho tutti, ho un'officina quasi come la sua, però nello specifico per fare lavori agricoli, lavori insomma in casa, eccetera eccetera. E quindi tempo 3 ore di lavoro, tutto a posto, ripristinato, fino al prossimo uragano, bomba d'aria, quello che vuoi. Tutto lì, quindi roba, quella cosa lì è uno scherzo, io porto su subito 8 metri. Ehi, ma no, il microfono come è nato tu, era la marca Tricom. Certo, c'è il suo, dovrebbe essere l'MH13, MH12, l'MH36, non lo so. C'era proprio Tricom, adesso siccome non c'è un armadio pieno di microfoni e cagate varie, adesso devo guardare di lì in mezzo, stavo dando uno sguardo così, però non l'ho visto. Tira fuori il microfono da giudizio, guarda che Tricom, dovrebbe essere HM12 o HM13, il microfono originale di quella radio, ok? Se no è rimasto di là, ma non penso, perché quando te l'ha restituito io l'ho visto il microfono attaccato. Ma c'era attaccato, guarda, sinceramente io non me lo ricordo. Se c'è, se me l'hai dato in mezzo ai microfoni, adesso siccome c'è un sacco di imbarazzi, stavo dando uno sguardo così, perché sono tutti i microfoni in un armadio, dove ci sono, c'è la palmo che è da tavolo, ce ne saranno una trentina di microfoni. Però guardandolo così ho trovato quelli della Kenwood, i due della Kenwood, che uno non è neanche il mio, che infatti me lo devo far ritornare da chi l'ho dato, mi ha dato quello suo che non va bene, quello del TS50, io gli ho dato quello del 440 mio. Io ho capito, no, non vanno bene, no, ce l'hai, guarda che, come quello della chiave non mi è marcato. faccio tutt'altro, capito? Tutti i pozzetti con le pompe, l'autoclave, tutte quelle cose lì me le gestisco io perché è il mio lavoro, ma io non sono un muratore, non mi posso mettere a fare queste cose, capito? Quindi i tubi, anche quelli PVC, me li ho tutti passati io, gli scavi me li ho fatti io, però lo stanno facendo altri lavori di copertura, perché è saltata una copertura nel terrazzino del piano superiore e mi ha fatto un casino, non era nel carveglio, ce l'aveva tutto il carveglio, proprio per comprare materiale di merda, quindi non è colpa loro, il materiale l'ho comprato io per andare a risparmiare. Adesso invece ho comprato tutto l'adesore, guaine buone, materiale buono, tutto buono, ho sfasciato tutto e ho rimesso tutto in ordine. E adesso stanno mettendo i pluviali nuovi, perché ho dovuto staccare anche i pluviali, tra l'altro staccandoli ci sono rotte anche le staffe, quindi comprate staffe nuove, la regione, insomma, un sacco di cose, però ti rifletti, io non sono muratore, non è, posso mettermi a fare muratore per fare cagate, quindi preferisco pagare e lo fa chi lo deve fare e chi sa fare il suo lavoro, tutto qua. Poi per il resto, quello che so fare mi metto a fare, quello che non so fare già fa, ma poi me lo faccio fare, me ne fotti nulla. Va bene ragazzi, io vado a mangiare che sono le 20:32, dai, ci sentiamo, baci e abbracci a tutti, vabbè, ci vediamo domani mattina, ti lascio con Gianfranco, ascolto il finale e poi chiudo, vai Gianfranco. Ok, buona cena, buonanotte, a domani, riprendi Roberto. Ehi, ok, ho tutto, comunque ho trovato il microfono, era da una trappa, cioè sopra, non era in mezzo al microfono, era in mezzo a un ricevitore sopra di lì, ma che ha tu incomo, già c'è. Ok, molto tutto, Claudio, ci sentiamo domani, buona cena, saluti e baci. Grazie tanto a voi, sì, e a tutti. Ci ascoltiamo, ci sentiamo domani, ci vediamo domani, ciao ciao. Baci proprio noi. No, ciao. No, baci Perugina, rega baci, cosa hai capito? Ciao, fumatore, non mi piace. Ah, tutto mi vuoi dire, ma io voglio sempre la vita buona, anche se fumo. Capito? Ma non mi piace a me baciare, quindi c'è da capire. Se già fa così, metto una parrucca, già me lo bacio. Ciao, ciao, ciao. Mi baciati, Antonio. Attinandi. Dai. Antonio è il fidanzato, non ci tocca, devi un altro. Poi non è che a me mi piace un'altra cosa, non è che mi posso... Vabbè, mica non ci... insomma, non ci riuscivo. Attenate! Non fare vergognoso, tu. Ma io, Sara, dammelo Antonio, 10 minuti. Vai, vai, vai. Vai, fatti furruggia tu, vai. Ma io ho lasciatelo andare a Claudio, se no magari rivenire un mancantissimo di baciarsi Antonio. Antonio me lo posso abbracciare che è un grande amico, baciare non si bacia nessuno. Ciao raga, divertitevela, ciao Antonio, ben entrato, ciao anche a Sara. Dai, un abbraccio circolare a tutti, vado a papare che c'ho fame, ciao. Ciao. Ciao Claudio, ciao, risentiamo. Vabbè. Dimmi tutto Gianfranco. A Claudio sai cosa le facciamo fare un viaggio in Russia. Che lì si facciano in bocca, no? Anche tra politici, come quando c'era Brezhnev, eccetera, si facciano in bocca. Ucci, che ho visto l'altro giorno dei in Arabia, in Qatar, non so che cosa. Noi quando trovi un amico magari gli appoggi la guancia, fai così. Invece di lì si appoggiano il naso, si toccano il naso, c'era questo sceicco, non so che cacchio era, perché era con tutte le guardie del corpo, si avvicina e sceso dall'aereo, c'era un altro personaggio importante, si sono avvicinati e si hanno toccato il naso. Finché toccano il naso, ancora. Avanti Antuccio, nato. Cappa, oggi la mia signora mi ha fatto l'igigione con la salsiccia. Antu, ti devi tenere la dieta, tu sei mangiando di trucco. Ma il problema mio è che io mangio cioè c'è cosa per il movimento. E appunto, devi come aumentare l'allenamento. Ehi, so che c'è commosso, sono con tanta là di travagliani, non so come rientra da casa. E cosa fai? Tu devi dire, le bombe da 25, tutte le cose le porto io, non serve mettere in mezzo nessuno. Andiamo in Oramaraga. Lui, te ne passa la gana, te ne passa, ma la gana vero per me. Già ne portiamo abbastanza, di quelle grandi che non tutti. Tanto? Ehi! Ma quella da 15 adesso è passata a 37. Portata sì. No, presa, cioè venuto da Ovilico la macchina, messa nel portabagagli. No, ce l'abbiamo di meno noi, ce l'abbiamo a 34 euro. Vabbè, solo che bisogna anche pensare che venire lì, praticamente, a meno che non ci passi per un motivo, poi ti esce 6 euro di benzina, quindi c'è il pro e il contro. Guarda cosa fai, tieni i bigli due, te ne prendi due e risparmi. Sembra facile. Dimmi Roberto. Ma Antonio, lo sai cosa può fare? Visto che lui è in alto rispetto a te, le fa rotolare e te le arrivano di tradite a casa, le fa scendere di lì in via Cosa, in via Venezia, il pezzettino di Monserrat e ti arrivano a casa. Ma poi quelle lì non rispettano i semafori, capito? Fanno un casino, è lì il problema. Che già si spostano, dai, non ti preoccupare, dai. Ok, di nuovo a te, Antonio, ma devi mangiare ancora? Hai già mangiato? Ho già mangiato, ti ho detto, mi ha preparato le gigioni oggi. Ma pensavo che dovessi ancora mangiarle, ti ho preparato, immaginavo che devi ancora gustarle. Buoni allora? Buoni. Ma lo volete, uso la campidanese, è molto il suo, poco mi piace, no? Allora, avevo usato, l'ho comprata io, ieri, la salsiccia quella al mirto, buona retta, Sì, sono tutte buone, anche se devo dire gradisco con la ricetta normale, perché c'è anche col finocchietto il coso, però preferisco quella normale io, dai, eccetera. Ok, già frate. Sì, la compravo anch'io, ho preso una ieri da quando c'era un mercatino, c'era qualcosa di micidiale, quella molto buona. A me il finocchietto mi fa diventare scemo, mi piace molto, solo che non riesco a trovarla. Ma sta andando a Piazza del Segno la mattina, lunedì? A Virani, che non ha tempo, se no già c'è sempre quello che la vende queste cose, la devo trovare, mi piace molto a me. Sì, la salsiccia poi se è stagionata bene, poi se delle zone della Gallura sono le migliori di tutte, proprio buone, anche nel Nuorese, ma anche la Gallura sono ottime. Sì, è vero. Guarda, io ho un amico mio, pastore di Ussi, che tu fa tutto lui, eccetera, eccetera, formaggi, e quando si deve fare la salsiccia per lui, non per venderla, per lui va da un amico suo, a Berchilla, in quelle zone lì, e li porta ai maiali, li rilascia a 3 o 4 mesi, di lì, 3 mesi dai, mi ha detto, e dopodiché li fa nutrire con le ghiande, tutte queste sostanze, queste piante che ci sono di lì, dice la salsiccia, quello gli fa una ricetta particolare, dice non viene mai nessuno, ti posso dire, questa che fa lui è ottima, però mi ha detto quella di questo di Berchilla è una ricetta speciale. Allora già non sanno come farle. Sì, no, nel frattempo stavo facendo queste istruzioni, mamma mia, che paranoia che sono, bisogna studiare anche per far funzionare le cose. E così, Roberto. Sì, vediamo se c'è qualcuno che ha piacere di entrare sul canale 10, avanti che vuole entrare. Stasera c'era anche Mirko, arrivava molto forte, infatti la cosa è fatta l'antenna, no, tutto normale, 9:10 quasi arrivava. Radio bella chiara, pulita, però Natalino non ascoltava, infatti ho detto, lui riusciva a sentire a Natalino e Natalino non sentiva a lui. No, io già lo sento già. E infatti, ma meraviglia, vabbè, c'è da dire che Natalino è un po' disagiato, tu magari c'hai l'antenna più alta, tanto sei più aperto, però Natalino adesso è arrivata la, come si chiama, la, aiutami, come si chiama quell'antenna che ci avete tutti voi, la Game Master, è la cosa, l'altra antenna per il ricevitore, e la vorrebbe anche lui farsi sentire e ascoltare adesso. Soprattutto me. Beh, io no. Ognuno fa come vuole, ma io no. No, non mi fido. Me la volevano vendere, l'avrei comprata, ma non mi fido. Adesso Antonio piglia colpi. Mi paghi il bitù da me che là dentro, non ti preoccupare. E vai, chi si ha su bogu bogu, in tutti i canali, mi intendi? E se non mi uguisco di voi. Ho visto che cioè alla fine poi attaccando tu vuoi Natale. Sì, magari ci sento anche forte, io mi arrivi quasi 9:60, niente di dire. Però io ti dico una cosa, quanto ne ne prendo io. I bigli buruzzù per me. Non credo, no? Io sono a zero vatimi, se alzo poco poco mi sento in tutti i canali. Vabbè, non posso alzare che disturbo io. Allora mi chiama l'antenna. Ah, tu? Eia, come tu sei Natali? Cioè, se io a te non ti sento, anche se tu aumenti, io a te non ti sento. Ricordati sempre cosa c'ho qua. Un attimino, Robè, e poi ti faccio... Se io poco poco... cioè, cambio qua, prendo un'arma da guerra. Avevi tu ne bigli da me, non ti preoccupare. Ma cos'è arma da guerra? Ma non lo vedi già attacco un cazzo? Chi su chi va in campagna? Non aveva vita nessuno a Sassari. Chi va 6 kg va? Ma non vedi, cazzo. Lo vedi, mi scatta anche il contrattore, qua non funziona neanche. In campagna sì, va via la dire 80, ma qui manco per le palle. 6 kg, guarda come ti batte chi s'antenna. Vado qui, puff! La gabellina sta lì. Cioè che quella è la chiamata più di 500 non li puoi dare. Fiati di me, sei quella originale. Quella originale, ma io non sto dicendo, se io dovessi attaccare quello mica metto la gamemaster. Io già ce l'ho l'antenna per poter far funzionare quello lì, che è modificata, capito? Non vedi che va, la resistenza va fatta di Dubudeva, di Ghisinramo. Se attacco vista qua, che qua non posso fare nulla, lo vedi, non posso fare nulla. Se no, se voglio fare danno lo faccio. Aspetta che facciamo riprendere Roberto. Allora, io ti volevo dire una cosa, qua io non ti sento, la verità, però ti dico una cosa, se tu ti aumenti la ricezione, senti più forte a me sempre, ricordatelo, come io sento più forte a te, la cosa è reciproca, poi quando attacca Gigi, allora sì che mi intendi forte, cioè... Ecco cosa ti voglio dire io, Natale. Cioè, se uno migliora la ricezione, è logico che se mi senti sempre più forte, come io sento sempre più forte a te. È normale. Ok, avanti, Robè. Scusa, tanto un attimo. Allora tu, tanto lo sai cosa devi fare. Tanto la corrente lui la prende dal pozzo, dalle pompe di coso, dalla fontana del Rosello. Lui è collegato alla corrente della fontana del Rosello, Natalino. Poi ti busci o vieni in officina, ti do di quelle 28 filettanti sottili, sottili, quelle tipo spillo, tu vai di nascosto la notte e gliela infili dentro il cavo dell'antenna e vedi che non disturba più Natalino. Appunto. Vero Gianfra? Però quelli spilli grossi, No, anche sottile, quelli lì, piano piano, la metti una vita autofilettante che attraverso il cavo e vedi che Natalino a Gigetto non lo fa funzionare. E a chi vive un gassaio, quindi con un fusile a pompa, a balla te la sparo. E così a Roma tu non fa più di più, Robè. Vengo il fucile a pompa, il tiro un tiro, dove c'è la carica della manto, va usiamo in tribola, alla ginara la ciappa. Guarda che ho messo le parabole come protezione della manto, ma se tu spari da giù non fai niente, ti devi mettere nel palazzo di fronte, se non la vuoi buttare la manto. Se la butto, mi metto giù e butto anche la manto. Ma è fine la Natale. Cos'è tu? È fine la Natale, cazzo. E io prendo la corda e te la butto giù, bene va. Vieni, vieni, tu vieni, che a te già lo sai. E allora cosa li facciamo invece? Il ritrittolo, perché lui c'ha il traliccio. Lo ritrittolo gli arbondi a vero. Ma io ho le trappole, appena lo individuano all'inizio della via, parte l'MG dalla torretta. Cioè, le telecamere con l'intelligenza artificiale riesce a scansionare la persona, si rende se riesce a capire se è una persona malintenzionata o un amico. Gianfranco non lo sa che io lo vedo dal monitor qua. Ma il tuo è un monitor di fantasia, il mio è un monitor reale, è lì la differenza. Mica ti vedo a colori, già lo sai. Oi. No, l'altro giorno ho aperto il satellite della COSO, della NASA, che c'è la telecamera ad alta definizione, e ho visto tutte le vostre antenne. C'ho un generatore di laser, che mi rompe le scatole, schiaccio un pulsante e vi brucio tutto. Io brucia questa, tanto la devo cambiare. Dì che devo prendere qualcuno per vero questa storia, tre mace. Faccia una cosa, quando la cambio io vengo a prendermela pure. E cosa questa? Eia! Ah, te l'ho già promessa tu, se no la lavo a te, cavolo. Perché questa qui vuole solo aggiustatami. Vuole aggiustato dove entra l'acqua, è blu, ed è una bomba, mi non sa quanto pompa. Peccato, me l'avrei piazzata qua. Questa, guarda, esce fuori un metro dal tetto, manco irradiando sta, figurati. Perché vuole almeno 3 metri dal tetto, almeno un quarto d'onda, là. Guarda, se me la piazzo qua c'è un dolore. Se ti piazzi questa, bombardi di più di quella, mi. Già con questa mi difendo bene, eh. Se piazzo mi c'ha guai. Ehi, cazzo, me lo dovevi dire, io l'ho promesso a un amico che se la giusta, la giustiamo assieme, no? Perché questa quando piove si piena d'acqua. Ce l'hanno tutte queste antenne qua, quel difetto lì, che si pienano d'acqua. E infatti non posso neanche alzare vatti, nulla, perché se mi salgono nel stazionario macello. Ma non fa niente, dagliela. Io pensavo che già a me già mi fa bene questa. E già va bene lo stesso, va. È che questa è bassa adesso qua. È per quello che molta gente io non la sento mi proprio, perché c'ho un bel QRM, se non passano il QRM non li posso sentire. Natalie. E questo è il microfono normale? No. Ah, vabbè, ma si avvicina moltissimo. Non è che cambia molto. No, ce l'avevo lontano, mia. Adesso è vicino, guarda. Se vuoi te lo faccio sentire quello normale. Prova a vedere la differenza, voglio vedere. Ciao Cla, beh, come sta andando? Bene questa ciccio. Manca un attimo, aspetta che voglio sentire a Natalino, poi vado a mangiare. Ok, no, stavo solamente provando, è stato adesso come si deve. Mi raccomando, vengo fra un po', che stavo mangiando. Ciao Tony Antonio. Calma, salutone per te. Avete parlato in shake, cosa hai detto Natalino? E questo è quello normale. Bella modulazione, bella corposa. Quella là rimane appena più amplificata, ma questa non è male, vero Antonio? No, ma è un po' più diversa, però non è male. Quella però mi piaceva di più. Quella là è più amplificata, ma questa non è male, va bene. Preso il microfono normale, va bene. Ok, volevamo sentire solo la radio, vai. Ciao ragazzi, sentiamo dopo se ci siete, buona cena a tutti. Oh, qua un attimino. Cara. Capo non ne ho di quella radio, non me ne hai dato tu di quella radio, perché avevo utilizzato quello delle 4.40 per provarlo, non me ne hai dato, lo devo ricercare. Porca puttana. Vabbè, non ti preoccupare, già ci vediamo mai. Sì, vabbè, l'ho guardato adesso per togliermi il dubbio, ma non ce n'è, perché adesso mi ricordo, ho usato quello del 4.40. E basta, non so come aiutarti. Vabbè, non ti preoccupare, diamo all'angelo. A Gianfranco il mic. Sono impegnato a Robec, che sto facendo una decodifica. Ehia, chi è rimasto qua, oltre a Natalina, con Antonio? Aspetta, ho parlato sopra qualcuno. Chi era? Chi ha parlato? Ho detto che è rimasto oltre a Natalino e a Antonio. Tutti volti. Ci sono io, quello che sei, sai quello che sto mangiando, là. Già ricordo fa poco. Eia, ciao Antonio. Natalino Alfa 1. Oia. Era già ci sei, cacchio. E Antonio è morto. E si deve provare a spostarmi da qualche altra parte, dai. Tanto per sentire qualcuno, dai, per far camminare anche l'altra radio, dai. Ci sentiamo magari dopo se coincide Natalino. E anche Gianfranco, se vuoi entrare là, Gianfranco, facciamo delle prove. Su V o U, vedi tu? Io sono in 160. Ci sono segnali interessanti. Hola. Che gli ha detto va a fare chiamata di lì e poi te lo fai così, se no dai, ci sentiamo dopo se coincide. Ciao ciao a tutti per il momento. Ehi a capa, come mi sentite? Con le orecchie sei 9.35. Capa, c'era un problemino, forse l'ho risolto. Scusatemi un pochettino, provo a cambiare un attimino canale e vediamo un pochettino, poi se ci siete ci risentiamo, se no salutatevi adesso. Ciao. Ehi, dimmi Luca. Andiamo, dove andiamo? Cosa va, lo smettere in cullato? Bene. Sempre, beh, con la mania di rabotenza, intanto. Capa. Aspetta, ah, bravo Natali. Guarda un po' come ti arrivo Luca. Ehi Natali, forte, sei sul 3, su quello che c'è, qua c'è solo 0. Ah, tu, come ti arrivo? Io come ti arrivo? Aspetta, vai. 1, 2, 3, prova. Sì, Natali. Allora, Antonio è in mezzo, tra il 3 e lo 0, Natali è sul 3, quasi sullo 0 arriva, dai, modulato. Non ha capito, no? Adesso sono basso basso, se altro guai. Ma Natali ti è piazzato. Cazzo, come mi vede a ridi? Scendi una attacca dall'altro, gatta, remiti tutti 9,50. Ah, poi entra un larghiero, gatta, non lo intenditi. Ah, io lo sento, non ho problemi. Lo senti, lo senti così, ma a Carlo non lo senti, tu ci parcheggia a Fertilia. Siete tutti uno attaccato all'altro, ma al momento ti vedi, longa. Allora, sappiatelo, sappiatelo, della zona vostra, della zona bassa, Antonio Bombolo vi greba a tutti. Anche a me crepa. Natali, non ti offendere, ti passa sopra, non ti crepa. Collineare, collineare. Vi ammazza a tutti, anche a Luca. Ehi, vabbè, vai, saranno 5 watt, 6 watt, là. Ma la differenza da 6 watt a 200. Ma lo so io quello che usa, e non mi interessa, però sto dicendo che Antonio qua, per l'antenna che ha, la posizione che ha, e dove sono io, ma ammazza a tutti, anche a Gianni Doppio Roma, a tutti, manco uno se ne salva. Se va bene così, poi se mi sento o mi sento, c'ho pazienza, a putassare. Vabbè, io lo sto dicendo, per state facendo le prove. Beh, Natali, tu sei in condizioni precarie. Se adesso tiri sull'antenna, metti sicuramente meglio l'antenna, tu non lineare non ne hai. Antonio usa lineare. Se magari lo usa, usate la stessa potenza a tutti, io non lo so che faccia, ma Antonio quando attacca ammazza tutti, tutti, tutti, tutti della zona bassa. A me del lineare non me ne frega nulla. Io sono con il watt a zero, mi qua. Se aumento e c'ho l'antenna come si deve, io penso che esco un bel forte da qua. Natali, ma l'antenna l'hai piazzata, sì? No, non l'ho piazzata ancora. Dovete fare le prove voi lisci. Allora, lisci vi dico chi è il segnale migliore. Ma Antonio attaccato è una cosa allucinante, ragazzi, arrivi 9,25. Tu immaginate che Gianni arriva a 9,20 ed è più alto di lui. Cosa vedi? Vabbè, ma troppo, come va quella radio? Bene, molto meglio di quello che pensavo, cioè, è veramente bella. Ho fatto un affare, esce veramente bene, c'è dei buoni sembra di ricezione, trasmissione, esce, almeno non c'ho quel cavolo di vento là in giro come prima, vabbè, adesso ci vedo due di apparati, quindi uno e l'altro, uso tutti e due, 300 euro di spesa per adattare vanno bene, se la via in culo. Vanno bene, tutti e due, anzi, questo è il terzo di coso, di Saturneco. L'ultimo che c'avevo l'avevo dato a coso all'uomo del monte, quello che mi aveva dato l'Antonio, l'avevo sistemato io, riparato, eccetera, eccetera, ci va forza anche quello. Adesso questo devo performarlo uno di questi giorni, vedrai che tuba come l'asino tuba. Eccolo qua, sono ritornato io normale. Ammazza, 9,10 ti è arrivato. Io quanto arrivo là? Uguale, 9,10, uguale. È veri. E c'ho l'antenna che alza un metro dal tetto, io la usai. se io adesso quando piatto l'antenna la alzo, io penso che arrivo più forte di Antonio. Prova, non c'è problema. Comunque da giù posso modulare per il momento, perché ho staccato tutto. Perché? Perché c'è la fine di Marina. Ah, sempre gente tranquilla. No, venerdì va via. Infatti venerdì dicevo scenderà a accompagnarla. Beh, che fastidio era? Perché c'è perché è attaccato tutto? Perché riceve il comodino, là, è solo un comodino, là, capito, cameretta sua. Ah, va bene, ok. Ma Natali, allora Luca così, se siete tutti lisci, Luca e Natalino hanno lo stesso segnale, 9-10. Tutte e tre lo stesso segnale ci avete. Capo, è calato di molto il confronto, adesso sono con poca potenza. Allora sicuramente Luca di radio vi crepa tutte e due, provate a parlare tutte e tre assieme, vediamo. Attenzione, non si capisce niente, proprio avete tutte e tre lo stesso segnale, non si comprende nulla. È logico, quando hanno lo stesso segnale delle persone si sovramudano e fanno casotto e buco. Oh signor, ma io sono con il watt a zero qua, già lo sai Bagosagla, non posso salire il watt che sennò succede il casotto. Ma stai facendo bene Antonio, quella radio è veramente fantastica, bella modulazione, bel segnale, ecco quando metti l'antenna lì non lo gioco, non lo gioco, me la dovete giocare lì, quelli della Bassa Valle, non lo so, però i rapporti ve li posso dare io a tutte e tre e vi posso dire qual è quello più forte, più debole, eccetera, perché sono completamente distante da voi, ma quando voi fate le prove tutte e tre attaccati, no? Non scegli a nuda, non serve a niente, siete troppo vicini, capito? Vai Antonè che io vado a mangiare ragazzi, vi abbraccio e eccetera eccetera, vado a pappare. Antonè, non so gli altri, ma io sento che ti porti appresso tipo un rumore, qualcosa, boh, non so che cos'è. La ventolina del coso, sembra fine dritta. Adesso voglio attivare, devo dargli un colpo, cioè smontarla, perché ho notato che c'ha dei problemi di rumore, ma adesso la sento veramente poco, tu figurati. Allora aspetta, Certo, tu la senti poco, ma il microfono se la porta presso. Voi la sentite questo rumore che c'è Antonello? Un gazzino. Gira, prova! Prova! Ehi, un secondo che stavo provando, ho dovuto attaccare come si chiama. Adesso fa poco attacco di getto. Adesso ho staccato l'alimentatore, fate se sentite niente, seduti e silenzio assoluto. Non sento niente io. Sì, adesso è pulito. Antonè, quando, ti do un consiglio, quando attacchi il lineare al Galaxy, guarda dove c'è scritto RF Power, ma c'hai 0, poi c'è un trattino, 10, trattino, 20, 25, 30, 35, 40, 50. Il Power, l'RF Power, lo metti a 10, dove c'è scritto 10, ok? E lì sono 7 watt, 6 watt, e vedrai che ci bene. La volta userà in meno, quindi dovrebbe pilotarlo bene, sono uguale alla verità, 4 watt che sto uscendo io, ho messo il watt, metto, quindi sono 4 watt, è il minimo, come si chiama, l'apparato, quindi va bene così. Se lo scendo a 2,5, quasi 3, quindi così sono 4,5, quasi 5. È vergine questa apparecchia ancora qua, quindi già va bene così. Allora adesso io attacco, vediamo cosa succede. Le palle succede, perché cazzo, io sono a posto già, cazzo. Il cavo dell'alimentatore di linea. Aspetta che la faccio. Tutti i casi anni che sto qua. Adesso lo sto facendo scaldare, ammazza. Hai attaccato, hai girato lo pulsante, ma proprio ripina attaccata. Ehi, cazzo, sono tutta la sera, cazzo, da stamattina da una cosa all'altra con Simona, quindi c'ho la testa cazzo un fumo, c'ho, figurati. Oh, già l'hai visto com'è la stamattina? Avanti indietro, perché cazzo c'era Simona che era lì da Sonia, e quello del genere, quello su dalla farmacia, e tutto fare il giro, poi ho dovuto aspettare a quella persona lì, parlarmi con la Geggio, poi sono dovuto entrare con uno da sola, poi sono andato a casa, ho cucinato, e carità, la testa mi sto violando, cazzo, mi sto veramente qua. Allora, vediamo un po' di ripetere il programma. Adesso ci siamo, adesso è attaccato. Guarda un po' come adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su quanti c'è forte. Buonasera. Ciao Ege, spettacolare Antonello, noto Cannuta, perché lo regge molto bene, non cambia la modulazione e va benissimo. Alla grande, fare prove con Porto Torres, ma io qua rilevo 9.20, 9.30, quindi ottimo segnale e ottima radio, non cambia niente. Ciao a tutti signori, che vada a cena, ciao! Ciao Claudio! Ciao Tattale, ciao a tutti! Ciao Claudio, ci sentiamo! Ciao Eugenio, buonasera! Sono 70 watt di tondi sono! Prima a 7 e poi si sentono 9 di brutto. Buonasera a tutti. Allora, che si dice? Buonasera Eugenio. Buonasera a Thomas, buonasera. Sono uscito da lavorare adesso ceno e poi un gusto. Ciao Eugenio, mi come io il portatore sei. E allora, bello, sempre più infante, grande. E allora, a posto. Beh Eugenio, mi sono arrivato poco fa a casa. Poco fa. Sì, più infante. Io sono piccolo e nero come Calimero. E allora Pupu, cosa mi dici? Perfetto, una bomba. Sono contento di quello che ho preso. Ora c'è l'altro, già lo sai. Quello per la macchina che è quanto questo, né di più né di meno, sono quasi precisi, va bene ugualmente. E presente che ho due stazionari, non so perché l'antenna evidentemente sta rompendo le balle. Poi se mi più R, 1 e 4 c'ho. Quindi c'è l'antenna che è senz'altro la carica delle. Quella, la bobina nera che sta rompendo le balle. Quindi adesso per il momento lo lascio così. Poi al momento opportuno vado e mi prendo l'antenna nuova, la 3 quarti d'onda, c'ha i radiali 7 metri di lunghezza, ce ne sono 4. Adesso ci sono le 3, perché sta scaldando. Non avevo detto che non capito, davvero sollicito un po' di potenza questa antenna qua, quindi figurati, in questo modo, quasi 90 watt adesso, quindi tonti. Io ho visto sta andando bene. Ma se c'hai qualcosa allacciato, non sono il vatto del baracchino. No, non sono i vatti del baracchino, c'è un livello attaccato. Allora, così è attaccato. Così è attaccato. Guarda un po', 3, 4, 5, 6. Quasi 5 watt. Si vede alla grande. La modulazione non cambia niente, va proprio bene con l'apparato, non va pure. Vabbè signore, io vado a cenare, ti voglio sentire vedere come stava andando. E niente, ci sentiamo magari più tardi. Ciao a tutti e buona cena. Eia, ciao Gio, buona cena, buon tutto anche a te, ci sentiamo alle prossime. Allora tanto. Scappa, ciao Antonio G, ci sentiamo. Alle prossimine. Eia, alle prossime se coincido. Ciao l'amico mio di Sassari, Luca, dopo Dogu, ciao. Ciao G, buona cena, dai, buona carica, buon tutto. Alla prossima, ciao. Avanti Anto. Capa, buonasera. Luca, ieri ero il capitano, ero. Allora che entra Don Costantino puro. Capitano Capocino? Ehi! Hai sonorizzato! Eia! Stava bene, c'era gente! Capa, mi pure a Paolo c'era con la sorella. Lo so, ti ha fatto la diretta, lo so. Ammazza l'invaria. Guarda che l'ho eliminata la diretta adesso. Tanto stasera telefono a Giovanna perché io ti ho telefonato e c'ero tutta la notte, cazzo, questa cosa in testa tua. Ciao Anto. E stasera se guardi non c'è un cazzo. Ho detto telefono a Giovanna verso le 7 di stasera, ho detto guarda Giovanna, detto, siccome c'ho due telefoni, detto, e sono in regia, non capisco la fanculo, detto, per poter eliminare questa roba qua, ha preso e ha usato il telefono e mi ha eliminato il video, quindi sei tranquilla. Ti butta a contentare, capito? Anche se non hai fatto niente di male, ma l'avrei fatto anch'io, cioè a farmi filmato. Comunque sia, vabbè, ho rispettato le tue volontà che mi hai chiesto e te l'ho fatto, quindi non preoccuparti. Sai che io ci tengo. Aspetta un attimo il telefono. No, è perché un biglietto si intruffa nei cavoli miei. E quindi, e chi viene, bomba, per quello M. Non ti preoccupare, non ci sono niente, tanto non ti preoccupare. Te l'ho già lì. Aspettate, risponde a Giuseppe a cosa di uncino. E a Luca, a volte. Scherza, Angela, Costantino, a fine serata ne vuole appurare le cose. Le microfoni che da me dai occhi. Sì, ho capito. Quella che fa il karaoke. Quella che fa il karaoke. Eia, ieri c'era il karaoke al capitano. E che lo stava facendo? Angela lo fa, quella che lo fa sempre. Ah, non so come cuga è. Ah, vabbè, non la conosci tu. È una scena, Poi già ti racconto la scena che ha combinato. E poi anche a voi Costantino. Lui può entrare, mi lo sai, perché è serato Finac, e quindi lui può entrare in tutti i circoli gratuitamente. Ehi, non so come sia. Ehi, tu l'hanno visto di Pomponio. Ah, che tu hai visto? Si sta parlando con Torino. Ah, roba vecchia. Dammi conto dopo, come sto arrivando il segnale? Lo so già. In questi giorni voglio andare, me ne hanno parlato bene, dal padre di Valeria voglio andare, in vacanza eredda. Noi siamo andati sabato, ma di passaggio, proprio, facevo dire 10 minuti di orologio, perché poi sono arrivati altri amici, purtroppo lì ci siamo andati via perché eravamo troppi. Vabbè, perché noi poi ci dovevamo alzare presto per andare a Olbia. E niente, sì, si sta bene, però non è un bello il trafo. Perché sto qui in fascia, che... Ma dice che fa karaoke lui. E io? Perché non ti proponi più, ma lì te lo fa fare qualche serata, però lo fa. Glielo dico. Però tu, sai cos'è? Ti devi scaricare il coso, come si chiama? Il karaoke a pagamento, quindi. Poi ti devi un po' esercitare a casa, capito? Ti fai le prove, che vai, poi ti incasini, se non sei pratico. Per forza ti incasini. Capolosa che devi avere il limitatore in certi locali. L'hai mai visto il limitatore? Ho capito che tu che stavo ascoltando un messaggio di Marina, cosa hai detto? Il limitatore ci vuole, lo sai. Sì, non so. Ma tu, ma ti conviene organizzarti bene, comprarti un karaoke, ti eserciti bene, ti carichi le basi, usare la buona prova. Tu cosa vuoi? Una canzone gliela carichi, così mano a mano, ho fogliato che sono già caricato, ci clicchi sopra e parte, se no altri cartoni a casino. Ma sì, l'ho fatto una volta, è un casino, tanto è un casino. Loro mi pare che c'è un direttamente con la CIA. Cosa? Loro per scaricare i brani li scaricano da un sito della CIA, mi pare. No, non è per i brani, ci vuole il karaoke con la licenza. Eh beh, sono un